quando forte la mia sorte, queste scuse, signorina. Quando forte la mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar. Meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar. Meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar. Sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar. Quando corte la mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturar. Oh, un po' meglio in posturar. Oh, un po' meglio in posturar. Il confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo, vi scottaste e via, e via. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso per cotesto imbroglio. Perché manca quel foglio? Sono inutili le sbarfie. Fermala, non mi toccate! Fermala, non mi toccate! No, figlia mia, non lo sperate, che io mi lasci fino a no, no. Figlia mia, non lo sperate, che io mi lasci fino a Paolo, con la mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, tu con me li posturar, con me li posturar, con me li posturar. Confessate, son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate. So benissimo quel che ho da far, so benissimo quel che ho da far. Signorino, un'altra volta quando vado da fuori, signorino, un'altra volta quando vado da fuori, la consegna se vittoria, sua moda si saprà. Signorino, un'altra volta quando vado da fuori, signorino, un'altra volta quando vado da fuori, la consegna se vittoria, sua moda si saprà. E non sei non rimorso, sta pulla che ta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pulla che ta morta. Questo poi quella porta, questo poi quella porta, nemmellare, nemmellare, nemmellare, potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non sei le smorfi, faccia pulla che ta morta. Questo poi quella porta, nemmellare, ne potrà. E Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata. Sì, per un po' da me la serrata, si può dare il tempo tra, si può dare il serrata, si può dare il serrata, si può dare il serrata, si può dare il serrata, sì. Signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna sei vittoria, il suo modo saprà. Signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna sei vittoria, il suo modo saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, così l'innocentina, sconsolata, disperata, me lo sarà le smorfie, faccio più la gatta morta, quella guarda, e me la levo tra, e non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, non dire, un dottor della mia sorte non si lava mai fino che no no. Un dottor della mia sorte non si lascia mai fino che e non si vede sentita sconsolata disperata in sua camera serrata. Io voglio star con te, io voglio star con te. Si star potrà, si star potrà, si star potrà, si star potrà.